Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Ancora poche settimane fa la Commissione parlamentare antimafia ha sollevato il problema del proliferare incontrollato dei negozi compro-oro. Le grandi città sono tappezzate da questi negozi, ma ormai anche le città medie e quelle più piccole, senza distinzione tra nord, centro e sud, hanno almeno un punto di acquisto e vendita del prezioso metallo. Un fenomeno che sta esplodendo dunque e che per molti versi ricalca quello dei negozi in cui è possibile telefonare all'estero e nel contempo spedire attraverso i money transfer soldi in tutto il mondo. Sarà forse per l'allarme della Commissione parlamentare antimafia, secondo la quale dietro una parte di questi negozi si celerebbe il rischio di usura e riciclaggio, che il sindaco di Tradate in provincia di Varese, Stefano Candiani, ha deciso di porre un freno all'espansione nella sua ricca città. L'amministrazione comunale la scorsa settimana ha varato un'ordinanza contingibile ed urgente per vietare l'apertura di nuovi negozi di questo tipo. Il provvedimento si limita a sancire un generico divieto di apertura di nuovi esercizi di compravendita di oro usato, in via temporanea e sino all'approvazione di norme regolamentari. Nel centro lombardo il comune, che conta più o meno 20.000 abitanti, è giunto a contare 5 attività di questo tipo. Il sindaco punta il dito contro i compro-oro, che sarebbero direttamente collegati alle difficoltà finanziarie delle persone colpite, ha detto in una dichiarazione alla stampa, dalla grave crisi economica che stiamo vivendo, sostituendosi impropriamente nei fatti alla funzione dei monti di pietà o del banco dei pegni. Poi ha rincarato la dose sottolineando l'allarmante frequenza con cui la criminalità organizzata sfrutti le attività commerciali di acquisto d'oro e metalli preziosi per mascherare e finanziare le proprie attività criminose. Non c'è che dire, un gesto coraggioso e per molti versi apprezzabile. Buona vita e a domani.